Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Every day Americans need a champion, and I want to be that champion. Diciamo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, che un po' di autoesaltazione va sempre bene, soprattutto quando si è candidati alla presidenza degli Stati Uniti, come ha fatto Hillary Clinton, che avete sentito all'inizio, ha detto: l'America ha bisogno ogni giorno di un campione, io voglio essere quel campione. Insomma, che la fortuna le porti bene, insomma, che questo annuncio, questa sua carica personale le porti bene. Avremo modo di seguire, perché ci sono nel 2016, l'anno prossimo, le elezioni presidenziali. Invece è qui che tra un mesetto e qualcosa ci saranno le regionali, e diciamo che in varie regioni ci sono delle tensioni, non sono chiare ancora gli accorpamenti, le alleanze. Una regione che particolarmente è nel caos è la Puglia, anche se è arrivata una notizia poco fa del presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che siccome si erano indecisi tra all'interno del centrodestra, perché è tutto un po' all'interno del centrodestra il problema, se sostenere Adriana Poliportone oppure l'oncologo Schittulli, alla fine Berlusconi, Forza Italia, ha incassato quindi anche il sostegno di Giorgia Meloni, quindi di Fratelli d'Italia, su Adriana Poliportone. Noi vedremo poi, diciamo che è Fitto, come sempre il dissidente numero uno da diverso tempo, che in questo momento deve capire bene che pesci prendere. Noi vediamo se prendiamo lui più tardi, perché oggi era una giornata convulsa, ci siamo sentiti più volte, ma vediamo poi se riusciremo a raggiungerlo. Comunque parleremo in ogni caso con un esponente di Forza Italia, e vi ricordo che stasera va in onda, essendo lunedì, la versione abbreviata di Effetto Notte, perché poi c'è una trasmissione una rubrica dedicata ai autotrasportatori. Quindi non perdete neanche solo un minuto di Effetto Notte, che siate autotrasportatori, che siate cicliste, piloti, motocicliste, insomma, oppure refrattari alle ruote. Comunque sia, iniziamo con il racconto della giornata. ANAS, il presidente Ciucci, dopo le polemiche, incontra Del Rio e annuncia le dimissioni per metà maggio. Turchia, le parole del Papa sugli armeni sono inaccettabili, dice il presidente Erdogan, ma il ministro Gentiloni replica: i toni di Ankara sono ingiustificati. Il documento di economia e finanza, l'Unione Europea lo promuove e sottolinea bene il bonus per le fasce deboli. Elezioni regionali. Sulla candidata Poliportone in Puglia, Berlusconi incassa anche l'appoggio di Fratelli d'Italia. Ostuni, un crollo a scuola, due bimbi feriti. L'inaugurazione della scuola era avvenuta 4 mesi fa. ISIS, una bambina di 9 anni stuprata dai jihadisti, è incinta, portata in Germania per cure ma rischia la vita con il parto. Letteratura, 87 anni è morto lo scrittore tedesco premio Nobel Günter Grass, e scompare anche Galeano, scrittore uruguaiano fra gli autori moderni più letti in Sud America. Fra le notizie avete sentito parlare anche delle polemiche in questi giorni tra il Papa e la Turchia sul genocidio degli armeni. Se volete, potrebbe essere questo l'argomento sul quale esprimere le vostre riflessioni. È sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure attraverso gli sms al 349-238-6666. Perché su questo, per esempio, il ministro degli esteri Gentiloni ha difeso il Papa, ha detto: sono toni inaccettabili questi della Turchia, che attacca il Papa che non doveva parlare del genocidio degli armeni da parte dei turchi. Invece il sottosegretario Gozi, alla Presidenta del Consiglio, Gozi del PD, dice: è inopportuno che il governo prenda posizione su questo argomento. Secondo voi è giusto o no che il governo dica: sì, il genocidio c'è stato e quindi il Papa ha ragione a dire questo? 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Note. Ma partiamo dalle dimissioni annunciate dal presidente dell'ANAS Ciucci dopo le polemiche seguite al crollo del pilone sull'autostrada 19, quella che collega Palermo Catania. Ciucci ha incontrato oggi il ministro delle Infrastrutture Del Rio, al termine di un faccia a faccia ha annunciato che darà le dimissioni per metà maggio e ha detto: lascio in segno di rispetto per il ministro, e poi ne parleremo più in dettaglio. E proprio oggi c'è stato un altro crollo di diverso tipo, ma certo non meno importante. In Puglia, a Ostuni, ha ceduto il soffitto di una scuola elementare da poco ristrutturata. La scuola è stata riconsegnata nelle vacanze di Natale dopo ben 4 anni di lavori e diciamo un raddoppio anche dei costi. Come ricorda ad effetto giorno il sindaco di Ostuni, Gianfranco Coppola, la scuola elementare della cittadina pugliese in cui 2 alunni e una maestra sono rimasti feriti per il crollo di una parte del soffitto era appena stata ristrutturata. Riaperta da poco ospitava 500 alunni. In mattinata 2 di loro, allievi di 7 anni di una seconda elementare, sono stati colpiti mentre erano sedute ai loro banchi da pezzi di intonaco caduti dal soffitto. Uno dei 2 è stato medicato con 2 punti di sutura alla fronte e anche l'altro bimbo ha riportato ferite solo lievi. La loro maestra è scivolata nel tentativo di soccorrerli e anche lei ha dovuto ricorrere a medicazioni in ospedale. Ancora il sindaco di Ostuni. La mia azione immediata sarà quella di istituire una commissione terza rispetto al mio ufficio tecnico che negli ultimi 4 anni ha diretto e controllato i lavori. Il Codacons chiede sicurezza nelle scuole prima che si verifichi una tragedia vera e propria, mentre il ministro dell'istruzione Giannini dichiara che quanto successo è la riprova che il piano sull'edilizia scolastica del governo è necessario. La scuola Enrico Pessina, nata in epoca fascista, aveva riaperto i cancelli il 7 gennaio, completamente evacuata e stata sottoposta a sequestro dalla procura di Brindisi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vedo già diversi vostri messaggi anche sui crolli di cui parleremo. Poi dice un ascoltatore: per fortuna che non abbiamo costruito il ponte sullo stretto, altrimenti erano guai. Ma effettivamente, a parte i guai che si possono prevedere da un punto anche idrogeologico, ma visto che la Sicilia manca su di sé, sul proprio territorio, di infrastrutture, di autostrade, forse bisogna dare la priorità a quelle. E poi Antonio, Movimento 5 Stelle, invece sulle regionali, c'è in Veneto che hanno alzato la soglia delle firme da 2.000 a 12.500 per poter partecipare alle regionali in 2 settimane, dice. E poi un altro ascoltatore: un altro campione per l'America, ma non avevano già Rocky Balboa? Sti americani prendono una patata e cercano di farti credere che sia un'enorme pepita d'oro. Beh, mi assomiglia anche un po' al nostro paese. Comunque, adesso parliamo del duro botta e risposta tra il Vaticano e la Turchia con toni ancora aspri dopo le parole pronunciate ieri dal Papa sul genocidio degli armeni. Polemica senza fine quella che contrappone Turchia e Vaticano sul genocidio armeno. L'ultimo attacco lo ha lanciato il ministro turco per gli affari europei Volkan Pozkir, secondo cui il pontefice avrebbe usato il termine genocidio perché viene dall'Argentina, un paese che ha accolto i nazisti e nel quale la diaspora armena è dominante nel mondo della stampa e degli affari. Termini molto poco diplomatici quelli di Pozkir, soprattutto se pronunciati dall'uomo che sta conducendo i delicatissimi negoziati per un ipotetico ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Da Bruxelles, la portavoce dell'alto rappresentante Federica Mogherini ha subito precisato che nell'ambito dello status della candidatura turca la normalizzazione dei rapporti con l'Armenia è particolarmente importante. Bruxelles incoraggia anzi a considerare significativi passi aggiuntivi. I toni felpati europei hanno trovato però poca eco ad Ankara. Il Gran Mufti Mehmet Gormez, principale autorità religiosa islamica sunnita turca, si è allineato al governo, criticando a sua volta il Papa per le dichiarazioni sul genocidio, a suo parere senza fondamento e ispirate da lobby politiche e ditte di relazioni pubbliche. Durissima pure l'ambasciata turca presso la Santa Sede. Il genocidio è un concetto giuridico, le rivendicazioni non soddisfano i requisiti di legge, anche se si cerca di spiegarle sulla base di una diffusa convinzione, restano calunnie. Da parte sua il ministro degli esteri Gentiloni contrattacca: la durezza dei toni turchi non mi pare giustificata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cosa ne pensate di questa vicenda? 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi, oppure le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ma rimaniamo sulle notizie dall'estero, con gli Stati Uniti. Abbiamo sentito Hillary Clinton che dice: voglio essere il vostro campione o campionessa. E invece negli Stati Uniti c'è il senatore repubblicano di origini cubane Marco Rubio che ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per la Casa Bianca contro Hillary Clinton, che dice è una leader del passato. E poi ha detto lui, che ha 43 anni, è stato il diretto concorrente di Jeb Bush, che ne fu il padrino politico, questo per i repubblicani. ISIS: una bambina di 9 anni è stata stuprata dai jihadisti, almeno una decina è incinta da una ONG, organizzazione non governativa, è stata portata in Germania per essere curata ma rischia la vita con il parto. Poi ne parleremo. Economia, per tornare in Italia, con l'incontro tra il ministro dell'economia Padoan e il vicepresidente della Commissione Europea. Governo al lavoro per individuare le categorie che beneficeranno del cosiddetto tesoretto, 1.600 milioni di euro frutto della differenza tra il deficit programmato e quello tendenziale. Nessuna decisione è stata presa, così come nessuna definizione dei tempi entro cui agire, fa capire il ministro dell'economia Padoan, che apre comunque ad una misura a sostegno dei più poveri. Nell'ordine allora si potrebbe pensare all'estensione degli 80 euro agli incapienti, oppure al potenziamento dell'assegno di disoccupazione mensile. Sul tema interviene intanto anche Bruxelles. Queste risorse, spiega il vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis al termine dell'incontro a Roma con il ministro dell'economia, possono essere usate per alcuni interventi prioritari. La cosa importante è che siano rispettati gli obiettivi di risanamento. andamento. Sui conti l'Italia non sgarra, commenta lo stesso Padoan. Con una prospettiva di crescita che via via sarà più sostenuta e di consolidamento della finanza pubblica che raggiungerà l'equilibrio strutturale e nominale nel 2017 e nel 2018. Critica il governo sul tesoretto dalle opposizioni. È un imbroglio, basta presi in giro, dice Brunetta, Forza Italia. Per Salvini, Lega, la priorità è togliere l'IMU sui terreni agricoli. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo alla politica. Questa è la settimana decisiva per l'Italia con la legge sulla riforma elettorale. L'ex capo dello Stato Napolitano ha invitato su questo la minoranza del PD alla responsabilità. Andare avanti comunque nei giorni in cui l'Italia, come l'esame di Montecitorio, l'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano interviene in difesa della nuova legge elettorale e chiede di non spaccare il capello in quattro. Non si può tornare indietro, disfare quello che è stato faticosamente costruito, elaborato e discusso in tutti questi mesi. Quindi guai se si piomba e non ricominciamo dal capo. Ma il problema adesso è se il governo chiederà di mettere la fiducia sull'Italicum, un'ipotesi che ovviamente non piace alla minoranza PD. Alfredo Dattorre attacca. Mi aspetto che il premier Matteo Renzi sgomberi il campo dall'eventualità, altrimenti non ci sarà alcun passo indietro da parte mia in Commissione Affari Costituzionali. Replica Roberto Giachetti, che giudica Dattorre nel PD peggio del capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta per astio e faziosità. In tutto ciò da domani sono attese le audizioni degli esperti sull'Italicum. Brunetta, intanto chiamato in causa, annuncia: ci sono almeno 100 deputati PD che diranno no alla legge elettorale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi del caos in vista delle regionali, soprattutto in Puglia, all'interno del centrodestra, parleremo più tardi con esponenti di Forza Italia, se riusciamo a raggiungere anche l'onorevole Fitto, ma mi sembra che voglia aspettare un comunicato ufficiale di Fratelli d'Italia. Siamo allora sulla cronaca. A Milano, dopo la strage a Palazzo di Giustizia, l'autore della strage, Giardiello, non ha risposto alle domande del GIP di Monza. Sentiamo la sua legale Nadia Savoca e numerosi giornalisti dopo l'udienza. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. In che condizioni l'ha trovato, avvocato, rispetto all'altra volta? È ancora in una situazione confusionale dal punto di vista della difesa. Quindi si è avvalso della facoltà di non rispondere, sì. Lei è riuscita a parlarci? Sì, ci ho parlato pochi minuti prima per valutare se era cosciente o meno e poteva partecipare consapevolmente all'interrogatorio. E come le è sembrato? Dal mio punto di vista non era consapevole di poter partecipare comprendendo in maniera congrua gli atti di accusa. Ma avvocato, il suo assistito gli ha confermato la fiducia? Sono il difensore di fiducia, sì. E ora di nuovo in Puglia col caso Xylella, il batterio, sradicati i primi ulivi tra le proteste degli ambientalisti. Sono saliti sugli alberi, si sono seduti sulle pale delle ruspe, i manifestanti che questa mattina hanno tentato di impedire l'eradicazione di 7 ulivi a Oria, in provincia di Brindisi, ma sono riusciti solo a ritardare di qualche ora l'operazione. Per contrastare l'epidemia che sta infestando gli ulivi pugliesi, causandone il disseccamento, l'Unione Europea ha approvato un piano di abbattimento degli alberi malati a cui si oppongono molti ambientalisti. Un conto è abbattere solo le piante già morte, un altro sradicare quelle malate che potrebbero guarire. Il batterio Xylella miete vittime già da 2 anni negli Stati Uniti e l'abbattimento delle piante non è servito ad arginarlo, come spiega l'agroecologo Gianluigi Cesari. La strategia statunitense non ha avuto successo. Hanno tagliato gli alberi di vite, però poi alla fine la Xylella non l'hanno eradicata. Probabilmente ci possono essere le condizioni per approfondire dal punto di vista della ricerca, dell'innovazione scientifica, per trovare delle forme di eradicazione, quindi di contenimento, se non addirittura debellare il batterio in maniera inedita. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura, due lutti nel mondo della letteratura. Due grandi scrittori ci hanno lasciato questa mattina: l'addio a Günter Grass, lo scrittore tedesco Nobel nel 1999, e nel pomeriggio l'addio allo scrittore uruguaiano Edoardo Galeano, che aveva 74 anni ed era un po' l'autore cult della sinistra latinoamericana. Bene, vedo diversi vostri messaggi su vari argomenti, ma soprattutto sul genocidio degli armeni. Sono Carmine, dice da Rocca: il Papa ha ragione, il genocidio c'è stato, come ci fu quello degli ebrei, una vergogna dell'umanità. Tra 349-238-6666, messaggi lì e anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Un altro dice, Clotilde, ancora una volta questo governo dimostra la sua ignavia, basta leggere La fattoria delle allodole per rendersi conto che il genocidio c'è stato. Poi Gianluca da Roma, non sono affatto d'accordo che il ministro Gentiloni si esprima per appoggiare la posizione del Papa, lui pensi a non creare incidenti diplomatici inutili una volta che non riguardano l'Italia e magari si occupi a riportare a casa i Marò. Il Vaticano risponda per sé, dice, uno Stato indipendente o no, allora se la vedano da soli. Insomma, posizioni contrastanti sul fatto che il governo italiano debba esprimere la propria posizione sull'attacco della Turchia al Papa, sul genocidio degli armeni, oppure no. Vedo che c'è interesse da parte vostra sulla polemica tra Turchia e il Papa sul genocidio degli armeni, chi è a favore dell'intervento del Papa e anche di una presa di posizione del governo italiano e chi invece dice con Gozzi, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, che il governo italiano non ci deve mettere bocca. Gilberto sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice, per una volta mi trovo d'accordo col Papa. Elena, il genocidio è storia, condivido ciò che dice Gozzi, nel senso che quindi è roba passata. Franco, penso che sia ben altre priorità, le scuole che cadono, i viadotti che crollano e bloccano intere regioni, poi ne parleremo, gli esodati. Dice Tonio, il Papa ha detto quello che l'Europa non ha mai avuto il coraggio di dire. Maurizio scrive, se erano stati zitti ci avevano guadagnato tutti. Questo è il parere di Maurizio. Adesso tra poco invece parleremo della Puglia, ma vi riassumo brevemente le notizie. A partire appunto da questa polemica di cui vi ho parlato, Ankara attacca il Papa, dice che è una calunnia inaccettabile sugli armeni, Gozzi dice il governo non si esprima, Gentiloni invece sono toni ingiustificati. Terremoto all'ANAS, Ciucci, presidente, si dimette dopo le polemiche per il crollo del pilone in Sicilia e intanto l'Unione Europea promuove le riforme italiane verso il sì al bonus alle fasce più deboli. Crolla il soffitto di una scuola Ostuni in Puglia, due bambini feriti, coinvolta anche una maestra, l'edificio era appena stato ristrutturato. Caos per Forza Italia in Puglia, ne parleremo tra poco. E poi per le presidenziali 2016 Rubio, repubblicano, sfida Hillary Clinton, dice lei è passato, io sono il futuro. E poi questa bimba stuprata da jihadisti a 9 anni, una bimba irachena incinta, portata in Germania per le cure, ma rischia la vita per il parto. Dunque parliamo delle regionali che dovrebbero esserci a fine maggio. Pare profilarsi in Puglia una resa dei conti, come si dice per Forza Italia. La situazione nella regione per quanto riguarda la candidatura del centrodestra è decisamente tesa, perché da una parte c'è Raffaele Fitto, che tra l'altro è europarlamentare di Forza Italia ed è stato presidente della regione Puglia dal 2000 al 2005, che da tempo contesta Berlusconi, era il suo delfino, poi è diventato il dissidente numero uno, vorrebbe pesare di più nella sua Puglia, ma Forza Italia, quindi Berlusconi, decide che il candidato presidente della regione Puglia debba essere in un primo tempo a febbraio l'oncologo Francesco Schittulli. Poi però succede quello che Adriana Poli Bortone di Fratelli d'Italia spiega così. Che il professore Schittulli abbia, senza necessità di farlo secondo me, abbia abbracciato troppo le tesi di Raffaele Fitto rispetto alle richieste numeriche di presenze nelle liste di Forza Italia, io l'ho trovato un'ingerenza, ecco, in un partito che avrebbe dovuto risolvere al suo interno i suoi problemi. Il professore Schittulli doveva rimanere quel che era e intorno a lui ci eravamo ritrovati veramente tutti quanti. Cioè Schittulli voleva più presenza di persone, insomma, vicine a Fitto. Allora Schittulli è stato quindi, diciamo, scaricato da Forza Italia, che ha poi deciso di candidare invece Adriana Poli Bortone, che è stata anche ex ministra, ex sindaca di Lecce e candidata nei giorni scorsi per la presidenza della Regione Puglia, appunto, contro Schittulli. Proprio Fratelli d'Italia poi hanno riunito oggi Schittulli era sostenuto da Fratelli d'Italia. Oggi la Meloni, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha riunito il partito per decidere se sostenere a questo punto uno e l'altro, quindi stare vicino al nuovo centrodestra e Fitto oppure stare con Forza Italia e la Lega. Una situazione insomma un po' confusa che Poli Bortone sintetizza così. Sarebbe abbastanza singolare che la Meloni, che appartiene ad un partito nazionale, di fronte ad una richiesta che viene dalla stessa Meloni, giustamente e correttamente, di trovare un candidato che riesca a fare sintesi di fronte a due partiti nazionali, Forza Italia e Lega, che indicano con una proposta un candidato di Fratelli d'Italia, la Meloni resti invece con una parte del nuovo centrodestra che governa con Renzi, con una lista civica e con un dissidente. Insomma, apparentemente un po' di confusione. Queste dichiarazioni la Poli Bortone le ha fatte a Sky TG24. Abbiamo cercato di raggiungere Fitto, ha detto che preferisce semmai parlare domani, ma c'è invece l'onorevole Francesco Paolo Sisto, che saluto. Buonasera onorevole. Buonasera, buonasera a tutti. Deputato di Forza Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Intanto ci chiarirà le idee, insomma, sugli ultimi aggiornamenti. Pare che Fratelli d'Italia invece dopo la riunione abbia deciso di sostenere la Poli Bortone, però lei addirittura ha parlato di questa candidatura, la Poli Bortone, insisto, come di una candidatura cult, addirittura. Beh, non c'è dubbio che da un punto di vista di autorevolezza Adriana Poli Bortone è stata ministro dell'agricoltura, che ha pensato moltissimo e seriamente ai problemi dei territori, anche di quelli pugliesi in particolare. È stata parlamentare europeo di grande prestigio, una donna che ha fatto e fa della coerenza il suo mantra, e non c'è dubbio che siamo di fronte ad una candidatura cult, cioè una candidatura di assoluto prestigio per esperienza e per capacità. Io stesso l'ho ascoltata recentemente in una occasione, l'ho trovata in grandissima forma e devo dire una politica di razza, quindi mi sembra che da questo punto di vista nulla si possa dire. Devo segnalare che io concordo con quanto ha detto Adriana Poli Bortone sull'ingerenza di Francesco Schittulli, che devo dire io personalmente ho pure sostenuto, ma devo dire che è stato abbastanza deludente. Io non credo che ci sia il candidato presidente della regione, deve essere il candidato presidente di tutti e deve essere il candidato innanzitutto dei partiti. Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia alle origini, e quindi non credo che abbia titolo ad ingerirsi nella composizione delle liste di qualsiasi partito. È un super parte, se tale deve rimanere, a garanzia della coalizione. E a questo si aggiunge che quando ha presentato la sua candidatura con la coalizione non ha invitato Forza Italia, beh, io credo che questo sia un modo di fare che non rassicura sulla capacità di coesione del candidato presidente. Io ho fatto il matto per raggiungere un accordo, perché sono convinto che la Puglia meriti un centrodestra coeso e mi batterò fino all'ultimo per questo, qualsiasi sia il candidato, in questo caso per la Poli Bortone, che Forza Italia ha scelto come suo candidato. L'unità mi sembra il porto in cui tutti quanti dobbiamo convergere con qualsiasi nave. Ma è ufficiale, è ufficiale allora che Fratelli prego. D'Italia lo sosterrà la Adriana Poli Bortone, perché sembrava interlocutorio la dichiarazione della Meloni. Io ho letto per la verità una dichiarazione in cui si fa riferimento a un sostegno della Poli Bortone se unisce, ma guardi, io se unisce, faccio una valutazione molto semplice. C'è un progetto di centrodestra che vede insieme i grandi partiti, Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia. Ma mi sembrerebbe singolare che in Puglia vi fosse una deroga a questa progettualità quando il candidato è un candidato di Fratelli d'Italia. Però per carità, in queste ore guardi, ne ho sentite e viste di tutti i colori e più ho cercato di mettere, come posso dire, colla fra le varie parti, più ho scoperto delle incompatibilità incredibili e senza precedenti. Però spero che, come è accaduto per San Paolo sulla via di Damasco, vi sia una conversione che consenta alla Puglia di avere un centrodestra, questo anche perché insieme veramente si può vincere. Però deve essere chiaro che ogni partito deve avere titolo a comporre le sue liste come meglio ritiene. Anche se esisto, qualcuno mi perdoni, qualcuno dice che lo stesso Berlusconi in realtà pensa che non ce la farete in Puglia contro Emiliano del centro-sinistra, sindaco di Bari, ex magistrato, e che quindi non voglia tanto metterci la faccia. Io posso soltanto dirle questo da barese doc, che gli anni in cui Emiliano ha fatto il sindaco sono stati pessimi. Una città abbandonata a se stessa, una sorta di edonismo politico, come se già fosse in campagna elettorale per le regionali senza fare il sindaco. Questo tutti i baresi l'hanno percepito in modo abbastanza netto su una serie di quadranti. Mi sembra che anche l'atteggiamento di Vendola nella sinistra, le spaccature interne al Partito Democratico non debbano lasciare tranquillo Emiliano, quindi non siamo di fronte a un candidato se non sulla carta forte. Dispiace che però questa situazione non riesca ancora a risolversi. Avremo modo di regionarci, comunque manca ancora un po' di tempo le regionali. La ringrazio intanto onorevole Sisto e buon lavoro. Un vero piacere, arrivederci. Grazie, reciproco. Roberto Giordano, sempre con voi, molti vostri messaggi, non riesco a leggerli perché sapete che questa è la versione più breve il lunedì di Effetto Notte, poi vediamo se c'è modo di leggerne qualcuno. Vi riassumo però le notizie più importanti. Anas, il presidente Ciucci, dopo le polemiche in contra Del Rio, annuncia le dimissioni per metà maggio. Turchia, le parole del Papa sugli armeni sono inaccettabili, dice il presidente Erdogan, ma il ministro Gentiloni replica toni di Ankara sono ingiustificati. Il documento di economia e finanza, la Unione Europea promuove e sottolinea bene il bonus per le fasce deboli. Elezioni regionali, abbiamo parlato del caos all'interno del centrodestra in Puglia e poi Ostuni, un crollo a scuola, due bimbi feriti. L'inaugurazione della scuola era avvenuta 4 mesi fa. Isis, una bambina di 9 anni stuprata dai jihadisti e incinta, portata in Germania per le cure ma rischia la vita con il parto. E per la letteratura, due lutti, 87 anni è morto lo scrittore tedesco premio Nobel Günter Grass, e scompare anche Galeano, scrittore uruguaiano fra autori più moderni, moderni più letti in Sud America. Ora invece occupiamoci di crolli italiani, a cominciare appunto da quello di Ostuni, l'avete sentito nel Brindisino, col soffitto di un'aula di una scuola elementare che è crollato durante le lezioni questa mattina. Due bambini di 7 anni feriti, anche un'insegnante è stata coinvolta, 10-15 giorni la prognosi. L'edificio scolastico, costruito in epoca fascista, era stato inaugurato il 7 gennaio scorso dopo essere stato chiuso per 4 anni, pensate. E poi dopo il crollo a inizio gennaio, invece, per passare ad altri tipi di crolli non meno importanti, vi ricordate del viadotto Scorciavacchi in Sicilia sulla Palermo-Agrigento, ancora una strada che cede in Sicilia e un'altra tragedia sfiorata. L'isola è spaccata praticamente in due dopo che venerdì pomeriggio un movimento franoso ha interessato il versante a monte della carreggiata Palermo-Catania, la 19, e quindi si è creato insomma un problema coinvolgendo almeno 3 piloni del viadotto Imera, uno dei quali è inclinato determinando un forte spostamento di tutta la struttura. In seguito a questo crollo ci sono state, almeno sono state annunciate, delle dimissioni eccellenti, ma ce lo spiega Livia Zancaner che ha seguito la vicenda. Ciao Livia. Ciao Roberta, buonasera. Sì, come dicevi tu, proprio questa mattina il numero uno dell'ANAS, Pietro Ciucci, ha incontrato a Roma il neo ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio e ha annunciato le sue dimissioni. Ciucci rimetterà l'incarico a partire dall'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio a metà maggio. La decisione, spiega l'ANAS stesso, è stata presa in segno di rispetto per il nuovo ministro al fine di favorire le più opportune decisioni in materia di governance di ANAS. Sicuramente si tratta di una decisione molto forte che arriva dopo mesi di polemiche. Ciucci, ricordiamo, è presidente dell'ANAS dal 2006. Negli ultimi giorni e mesi, come ricordavi tu poco fa, l'ente è stato travolto da incidenti critici. A gennaio il crollo di una parte del viadotto sulla statale Palermo-Agrigento, poi a marzo il crollo della campata del viadotto Italia sulla Salerno-Reggio Calabria, dove è morto anche un operaio. A marzo, ricordiamo, l'inchiesta sugli appalti che ha portato alle dimissioni il ministro Maurizio Lupi, e per ultimo il crollo del pilone del viadotto sulla 19 che collega, o meglio possiamo dire collegava, Palermo e Catania, con la conseguenza quindi che la Sicilia è spaccata a metà. Alcune persone che ho sentito mi hanno spiegato davvero che la situazione è drammatica, la viabilità seriamente compromessa. Noi oggi abbiamo intervistato Leo Luca Orlando, che è il sindaco di Palermo, ma che in questa occasione ci parla come presidente dell'ANCI Sicilia, che è l'associazione dei comuni siciliani. Sentiamo. In questo momento la Sicilia è divisa in due, tant'è che qualcuno sta pensando di ripristinare i collegamenti aerei da Palermo a Catania. Stiamo parlando di una condizione assolutamente drammatica e insostenibile, la cui responsabilità non può che essere dell'ANAS e del governo nazionale. Ecco la ragione per la quale ho chiesto che si faccia una commissione parlamentare d'inchiesta, perché siamo stanchi di assistere passivamente al degrado del territorio siciliano da una parte, dall'altra parte di assistere a ruberie, sprechi, difetti di progettazione, carenze di manutenzione. E ha parlato con qualcuno del governo, con il ministro? No. Io ho chiesto formalmente come ANCI che si apra una commissione d'inchiesta. Ovviamente rappresenterò questa esigenza al ministro Del Rio, ma tanto mi sembrava opportuno da una parte augurarmi che la magistratura, come pare che stia avvenendo, accetti ogni responsabilità, ma al tempo stesso di porre un problema politico di una regione siciliana nella quale la scarsa credibilità del governo regionale finisce con trasformare la Sicilia in un luogo di degrado crescente. Ed oggi c'è stato un incontro tra il governatore della Sicilia Rosario Crocetta e lo stesso Ciucci. Dal vertice è emerso che per il ripristino della viabilità servono circa 30 milioni. L'ANAS ha confermato il massimo impegno a reperire le risorse. Domani intanto continueranno i sopralluoghi per vedere come intervenire, e la procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è disastro colposo. Ed è tutto, a te Roberta. Grazie Livia Zaccaner. invece parliamo di tutt'altro argomento, parliamo degli orrori inenarrabili degli uomini dell'ISIS. Tra gli infiniti fatti di violenza efferatissima compiuta da questi uomini, c'è il caso di una bambina di 9 anni di etnia yazida, che è una minoranza nel nord dell'Iraq, che è stata diverso tempo nelle mani degli uomini dell'ISIS, violentata da almeno una decina di loro, è rimasta incinta, un'organizzazione non governativa è riuscita a prenderla, a portarla in Germania per curarla, ma dicono che temono per la sua vita perché potrebbe morire durante il parto. E questo è soltanto uno dei tantissimi casi, immaginate, sono proprio un vortice di atrocità davvero infinito, inenarrabile. Dicono che la bambina, come si può immaginare, è rimasta traumatizzata mentalmente e fisicamente. Ne vorrei parlare con Maria Rita Parsi, che saluto. Buonasera. Buonasera. Grazie, Parsi. Psicologa, psicoterapeuta, unica italiana nel Comitato ONU sui diritti dell'infanzia. Che cosa si può dire di fronte a questi orrori? Tra l'altro leggevo che gli uomini dell'ISIS fanno incetta di Viagra, come appunto sottolineare questa idea di mascolinità completamente malata, portata veramente... A lei ha ragione, perché se hanno bisogno del Viagra per dimostrare che sono degli uomini, non solo, ma hanno bisogno di violentare come i pedofili le bambine. Vorrei aggiungere che è un meccanismo di odio nei confronti del mondo femminile, c'è una violenza che non è soltanto quella dell'ISIS. Vorrei proprio, come membro del Comitato ONU per i diritti dei fanciulli e delle fanciulle, dire che ci sono molti paesi del mondo dove le bambine vengono sposate giovanissime. Per esempio mi viene in mente che il Niger è al primo posto, il 76% delle spose hanno meno di 18 anni, poi c'è il Chad, il Bangladesh, il Mali, la Guinea, la Repubblica Centrafricana, il Nepal, il Mozambico, potrei andare avanti un'ora, 20 top 20 proprio dei paesi in cui i matrimoni di minorenni sono più diffusi, non si devono sposare, poi per non parlare della gran parte del Medio Oriente. Una situazione di questo genere è una situazione di una gravità immensa, perché significa non rispettare i tempi di crescita delle persone. Questa piccina che probabilmente ha avuto il menarca intorno ai 9 anni è stata violentata e messa incinta e in condizione di morire per dare alla luce un'altra creatura. Quindi la violenza è una testimonianza di come il rispetto assoluto che si dovrebbe ai bambini, alle donne, agli anziani, eccetera, viene assolutamente negato, non c'è pietà, non c'è misericordia. E quindi io vorrei dire che non solo questo è grave, ma è grave anche che in tante parti del mondo le bambine vengano condannate ad essere spose a 8, a 9, a 10 anni, a 11 anni. Quindi è un livello di violenza che non è soltanto di questa atrocità che ci rivela l'ISIS, ma è un discorso più vasto, più diffuso. Avremo modo di riparlarne, purtroppo, tutte le bambine e le ragazzine che poi vengono prese e vendute come schiave, certo. Sessuali. È una situazione davvero verso la quale ci sentiamo impotenti, ma almeno di cui bisogna essere consapevoli. Dottoressa Parsi, io la ringrazio, spero di risentirla presto. Grazie, buona continuazione. Noi ci dobbiamo lasciare qui perché sapete che la versione breve è quella del lunedì, adesso c'è una rubrica per gli autotrasportatori, vi aggiorno giusto alle 22.